Il punto di Stefano Folli. Il paradosso non potrebbe essere più stridente. Da un lato il Presidente del Consiglio che annuncia le cifre dell'economia reale e si aggrappa al filo di una debole ripresa che prenderà forma, nella speranza di tutti, solo nel 2013 inoltrato, e per ora c'è da soffrire e l'obiettivo massimo è quello di evitare il nuovo aumento dell'IVA. Dall'altro lato il vaso di Pandora della regione Lazio, da cui emergono ogni giorno nuovi dettagli sconcertanti naturalmente. Ieri ha parlato Fiorito, l'esponente del PDL intorno al quale è scoppiato lo scandalo, e ha detto una cosa tremenda, ma forse persino vera: non paragonatemi a Lusi e a Belsito, perché io gestivo sì somme enormi e vergognose, parole sue, ma nel rispetto della legge. È una linea difensiva, certo, ma tutti avvertiamo che c'è una sostanza in queste parole, perché è il sistema che permette questi incredibili sperperi. Il fiume di denaro è a disposizione di tutti senza controlli. Ecco il marcio ed ecco il paradosso perverso in cui soffoca l'Italia.